Enciclopedico, dottore enciclopedico, chiamato Dulcamara, la cui virtù precara e i portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. E nei fattori degli uomini ripara per dei mani, in pochi giorni ho sgombrato il mio spazio agli ospedali, e la salute a vendere per sostenere un po'. Compratela, compratela, per proprio ve la do, compratela, compratela, per proprio ve la do, compratela, compratela, per proprio ve la do. E questo lodontalgico mirabile liquore, nei docchietti delle cimici, possente di scultore, di cui certificati, autentici, collati, toccar vedere, leggere, a ciascheduno farò, per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uomo sempre e vale ordinario, un danno di 10 angoli, e dove ti metto, di 10 o 20 angoli, il danno di metto, per questo tocca in sana, in breve settimana, io una stretta vedova, di piangere c'è sto. O voi, matrone rigide, rigiovanire bramate, le vostre rughe incomode, come esso cancellate, volete voi donzelle, belli per la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate il mio specifico per proprio ve lo do, per proprio ve lo do, per proprio ve lo do, da bravi giovinotti, da brave e dovente, comprate il mio specifico per poco io ve lo do. E i nuovi paralitici, spettici, gli apoplettici, gli asmatici, gli asfittici, gli isterici, gli diabetici, paiscetti, anittiti, e scrappole rachitini, e dire il mal di fegato, che io da diventò. Mirabile per i cimici, mirabile per il fegato, paisce i paralitici, spedisce gli apoplettici, comprate il mio specifico, voi le nove donzelle, voi giovani calanti, per poco io ve lo do. Avanti, avanti, vedove, avanti, avanti, angoli, comprate il mio specifico, per poco io vino, no, sì, sì, per poco io vino, no, sì, sì, per poco io vino, no, sì, sì, per poco io vino, no. Questo è vero. L'ho portato per la posta da lontano mille miglia, mi direte quanto costa, quanto vale la lotteria? 100 scudi, no, 30, no, 20, nessuno si spaventi. Per provar il mio contento, si sia qui quanto il vento, io ti voglio per gente uno scudo regalare. Uno scudo per la mente, per la mente, tutta Europa sa che io vendo, niente vendi, 9 lire. Ma siccome pur palese, io son nato,